luogo, spesso la porta d'accesso alla città è costituita dalla stazione ferroviaria. In virtù della posizione strategica di Bologna, intermedia tra il nord e il sud della penisola, si tratta del principale snodo ferroviario italiano. Grazie all'alta velocità è oggi possibile raggiungere il capoluogo emiliano in mezz'ora da Firenze, in poco più di un'ora da Milano e in circa 2 ore e mezza da Roma. La stazione di Bologna fu inaugurata nel 1876 su progetto dell'architetto Gaetano Ratti dell'Accademia Clementina di Architettura, che volle imprimere all'edificio un'impronta stilistica dai riferimenti evidenti al 400 fiorentino, con facciate scandite su 2 ordini dai decori a bugnato. La costruzione del cornicione decorativo, sostenuto da colonne di marmo, risale invece al secondo dopoguerra, in sostituzione della pensilina in metallo originaria. Ne hanno modificato la conformazione iniziale anche gli interventi del 1926, apertura dell'ala del piazzale ovest, del 1934, costruzione dell'ala est, e la recente costruzione della stazione ferroviaria dedicata all'alta velocità. Come grandezza e volume di traffico, quella di Bologna si piazza al 5° posto tra le stazioni italiane, con un'area di 78 metri quadrati in cui transitano ogni giorno, tramite i suoi 700 treni, una media di 159 passeggeri, 58 milioni ogni anno. A qualcuno di questi passeggeri, uscendo in piazza Medaglie d'Oro, è possibile sia venuto in mente di leggere l'orario riportato dall'orologio posizionato sul lato ovest dell'edificio principale, riscontrando sempre lo stesso orario, le 10:25, in qualunque momento del giorno. L'orologio è infatti fermo a quell'ora dal 2 agosto 1980, il giorno più buio della storia recente di Bologna. Il giorno dell'attentato terroristico che ha provocato 85 morti e oltre 200 feriti. L'attentato terroristico più grave della storia italiana. Possiamo dire senza timore di smentita che la transizione tra gli anni 70 e 80 del secolo scorso a Bologna è stata traumatica. In città era ancora vivo il ricordo dell'occupazione da parte dei mezzi blindati per sedare la rivolta studentesca del 1977, che 3 anni più tardi un vigliacco attentato dinamitardo sconvolse per sempre la città. Erano le 10:25 del 2 agosto 1980, quando nella sala d'attesa di seconda classe della stazione ferroviaria esplose un ordigno composto di 23 kg di esplosivo a base di tritolo, T4 e nitroglicerina. Si trattò di un dispositivo a orologeria, come verrà dimostrato, contenuto in una valigetta posta su un tavolino portabagagli sotto il muro portante dell'ala ovest. La deflagrazione ebbe una potenza tale da rovesciare il treno che si trovava in sosta sul primo binario, provocare il crollo di un'ala dell'edificio, distruggendo 30 metri di pensilina e spazzando via il parcheggio dei taxi. Fin dai primissimi istanti dopo l'esplosione, tutti a Bologna si adoperarono per contribuire a organizzare i soccorsi e aiutare a recuperare i corpi dai detriti. Tuttavia, non c'erano abbastanza ambulanze per il trasporto dei feriti negli ospedali, così vennero impiegati anche taxi, auto private e autobus, in particolare quelli della linea 37, che da quel momento diventò uno dei simboli della strage. Nonostante il clima politico fosse ancora quello degli anni di piombo, nonostante ci fossero già gravi indizi che Bologna sarebbe stata bersaglio di un attentato, la reazione del governo, all'epoca guidato da Francesco Cossiga, fu quella di negare la matrice terroristica del massacro. Una figura controversa quella di Francesco Cossiga, che i più attenti ricorderanno per un'altra iniziativa, proprio quella del 1977, in cui inviò i mezzi blindati per sedare gli scontri di piazza. Un gesto quello che non fece che esacerbare lo scontro politico, dando l'impressione che la città emiliana fosse presidiata da veri e propri carri armati, provocando una ferita nella memoria cittadina che di certo, nel 1980, non si era ancora rimarginata. Per 24 ore, infatti, la posizione ufficiale delle autorità di Roma fu un'incomprensibile negazione dell'attentato e l'attribuzione della causa dell'esplosione al malfunzionamento di una vecchia caldaia situata nel sotterraneo della stazione. Una caldaia che addirittura non è mai esistita. Come già accennato, in realtà erano settimane che circolavano voci su un imminente attacco legato al terrorismo nero. Verso la fine di giugno, infatti, il neofascista Luigi Presilio, detenuto presso l'Istituto Circondariale di Padova, aveva dichiarato al magistrato di sorveglianza del carcere di essere preoccupato per una confidenza fattagli dal compagno di cella. Quest'ultimo gli avrebbe annunciato che era prevista per l'inizio di agosto una strage così eclatante che ne avrebbero parlato i giornali di tutto il mondo. Non basta. Ciccio Mangiameli, esperto di esplosivi e informatore dei servizi segreti, durante un colloquio col colonnello del SISDE Amos Spiazzi, avrebbe confidato che per i primi di agosto si prevedeva un attentato di gravità e clamore senza precedenti nel nostro paese. Qualche giorno dopo, Spiazzi rilasciò un'intervista al settimanale L'Espresso riportando il contenuto della conversazione. A settembre, il cadavere di Ciccio Mangiameli fu trovato nel fondo di un bacino artificiale. Dal giorno successivo alla strage, le indagini della Procura della Repubblica di Bologna partirono con tempestività e decisione. Già alla fine di agosto era pronta una relazione accusatoria, con tanto di ipotesi su mandanti ed esecutori. Ma l'inchiesta si arenò una volta inviata a Roma, per via delle competenze sulla pista eversiva. Cominciò così la stagione dei depistaggi e degli insabbiamenti. Dopo ben 7 anni, il 19 gennaio 1987, iniziò il processo. Ma dovettero passarne altri 12 perché arrivasse la sentenza definitiva dalla Cassazione. Il 23 novembre 1995 furono condannati per l'esecuzione materiale dell'attentato i sovversivi Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini. Una nota. La Mambro e Fioravanti, pur riconoscendosi colpevoli di svariati omicidi, sulla strage del 2 agosto si sono sempre proclamati innocenti, e lo stesso ha fatto Ciavardini. Vennero condannati per depistaggio l'ex gran maestro della P2 Licio Gelli, l'ex agente del Sismi Francesco Pazienza e gli ufficiali Pietro Musumeci e Giuseppe Belmonte. Ma i mandanti e il movente dell'attentato rimangono oscuri, così come i motivi che avrebbero spinto P2 e i servizi segreti a collaborare all'insabbiamento e alla costruzione di prove false per depistare le indagini. Insomma, rimane ancora oggi la sensazione che non sia emersa tutta la verità. Qualcuno ha azzardato l'ipotesi di un collegamento tra la strage del DC9 di Ustica e quella di Bologna, in cui spunta ripetutamente e ciclicamente l'ombra dei servizi stranieri. Ma non è tutto. I dossier, infatti, sono protetti dal segreto di Stato. E la proposta di legge di iniziativa popolare da parte dell'Associazione delle Vittime della Strage alla Stazione di Bologna per l'abolizione del segreto di Stato nei delitti di strage e terrorismo non è mai stata discussa in Parlamento, nonostante le 100.000 firme raccolte. In compenso, nel corso del tempo ne sono state discusse e approvate altre 2 con lo stesso nome nel corso degli anni 90, volte a rendere più restrittiva la legislazione esistente. Gli strascichi polemici relativi alla strage della stazione di Bologna sono continuati fino a tempi recenti e non si possono di certo dire spenti dopo che nel 2009, trascorsi 18 anni di carcere, la Mambro e Fioravanti sono stati rilasciati. Per questo ancora oggi, all'esterno dell'edificio della stazione di Bologna, è presente l'orologio da allora e per sempre, fermo alle ore 10:25. A titolo commemorativo, durante la ricostruzione della sala d'attesa, è stato mantenuto uno squarcio sul muro che dà sui binari. A fianco è stata posta una lapide con i nomi di coloro che hanno perso la vita nell'attentato. Nel punto dove è avvenuta l'esplosione è presente la pavimentazione originale, con l'avvallamento generato dallo scoppio dell'ordigno. I vivi e i non morti.